Alle 8:54 minuti noi affrontiamo il primo dei nostri approfondimenti della mattina. Andiamo lontano da Bologna, ma anche se in qualche modo, insomma, ci rimaniamo, adesso capirete il perché, ma torniamo anche indietro di un po' di anni, precisamente 11, torniamo al G8 di Genova, a luglio del 2001. Salutiamo l'avvocato Emanuele Tambuscio da Genova. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Allora, chi ieri è andato sul nostro sito oppure ha ascoltato, insomma, il giornale radio di Popolare Network ha potuto sentire questa notizia, cioè sarebbero imminenti i provvedimenti per i 4 agenti del 7° reparto mobile di Bologna che a dicembre sono stati condannati in via definitiva dalla Cassazione per l'arresto illegale di 2 giovani spagnoli avvenuto il 20 luglio del 2001, insomma, giorno tragico, il giorno della morte di Carlo Giuliani a Genova, un arresto illegale in piazza Manin, un processo che appunto è diventato definitivo con la sentenza lo scorso dicembre, c'è una condanna a 4 anni per falso ideologico, anche un'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Questo significa che gli agenti quasi sicuramente, insomma, non mi voglio sbilanciare perché il provvedimento ancora non c'è, però dovranno abbandonare la divisa, ma questo anche significa che questi sono i primi agenti che subiranno delle conseguenze professionali per quello che accade in quei giorni. Con l'avvocato Tambuscio, che ha rappresentato appunto uno dei 2 ragazzi spagnoli, insomma, che sono stati arrestati in modo illegale, secondo i giudici, 11 anni fa, vogliamo un po' tornare a quella giornata, avvocato. Che cosa accadde? Come possiamo ricordare quei fatti? Questo è un episodio, se vogliamo, laterale, però insomma significativo di quello che accadde in quei giorni. Sì, è un episodio significativo perché non è stato l'unico, nel senso che non è la prima sentenza a andare definitiva del G8, c'è stato un episodio praticamente identico che ha riguardato un altro arresto falso, perché quando parliamo di arresti illegali sono arresti falsi, infatti la condanna per falso ideologico, cioè la polizia ha scritto e detto che alcuni ragazzi stavano facendo dei reati e è stato dimostrato che assolutamente non era vero. Dicevo, è già andata definitiva un'altra sentenza a carico di altri 5 agenti per l'episodio che noi chiamiamo di via Barabino, è successo il giorno dopo, sabato, cioè l'episodio del calcio al ragazzino minorenne, e le conseguenze professionali non sono state le stesse, nel senso che in quel caso la pena è stata minore e quindi a quanto ne sappiamo noi non c'è stata nessuna destituzione. L'episodio è marginale, però nell'ambito della carica che è avvenuta in piazza Manin, dove ricordiamo si trovava la rete Lilliput, altre associazioni pacifiste, c'era anche il Pink Block, il centro è una piazza autorizzata dove c'erano tutti i gruppi pacifisti, e in quell'occasione sono state presentate 70 querele da persone che sono state picchiate dalla polizia, e purtroppo quelle sono finite in niente, e quello era l'episodio centrale, nel senso che chi c'era ricorderà bene quello che è successo. E su questa singola condanna, devo dire che la condanna in sé è assolutamente giustificata, nel senso che nostra soddisfazione essere arrivati a questo risultato, perché è la dimostrazione che pur con difficoltà, perché in primo grado c'era stata una soluzione, pur con difficoltà e con tempi lunghissimi, la giustizia alla fine è riuscita a funzionare anche nei confronti di agenti di polizia. E su un piano generale non c'è nessuna soddisfazione da parte mia a veder pagare solamente i gradi più bassi. E devo dire che lo avverto come una qualche ingiustizia, nel senso che a Genova è successo qualcosa di estremamente grave, e il fatto che a pagare adesso, i primi a pagare, forse gli unici, sono dei sovrintendenti di polizia, ripeto, lo vedo come una forma direi di ingiustizia, paradossale che sia io a dirlo come difensore di parte civile, però gli alti gradi sono stati tutti promossi, ci sono stati promozioni a cariche molto, molto elevate, personaggi che sono andati in pensione con gradi sicuramente impensabili, e vedere adesso condanna penale, ripeto, è sacrosanta, l'interdizione dei pubblici uffici è una conseguenza della condanna automatica di questo tipo di condanna, però il problema di Genova è un problema politico oltre che giudiziario, soprattutto politico, e adesso chiudo dicendo, facendo un esempio, sarei molto più soddisfatto sapere che è passata la legge che doveva prevedere il numero identificativo sui casi degli agenti per evitare che succeda di nuovo quello che è successo in piazza Manin, piuttosto che vedere licenziare il sovrintendente di turno, semplicemente questo. Ecco, avvocato, appunto si sta aspettando di capire che cosa accadrà poi nella precisione, però questi provvedimenti sembrano veramente imminenti. In ogni caso, probabilmente il Viminale ci sta andando un po' con i piedi di piombo, anche perché poi la Cassazione si dovrà esprimere anche sulle condanne della scuola Diaz, e lì ci sono appunto quelli che lei ha detto hanno fatto carriera anche in questi anni. Anche lì c'è qualcuno che ha subito l'interdizione dai pubblici uffici? Sì, gran parte dei funzionari condannati in appello alla Diaz hanno avuto l'interdizione dai pubblici uffici, anche perché in questo caso la pena è stata superiore ai 3 anni, quindi è conseguenza automatica. Io ripeto, a certi funzionari, le responsabilità dei funzionari erano enormemente maggiori a quelle del sovrintendenti. Il problema secondo me è ancora a livello più alto, perché quello che è successo a Genova secondo me in molti paesi avrebbe comportato le dimissioni di un ministro dell'interno se non di un governo. Cioè, noi ricordo sempre che a Bolzaneto in una delle notti peggiori abbiamo avuto la visita di un ministro della giustizia e il tribunale ha scritto che a Bolzaneto è stata tortura. E ci ricordiamo bene le dichiarazioni del ministro in allora, veder licenziare il sovrintendente. Ripeto, dopo 11 anni di lavoro, lo dico io, è una soddisfazione abbastanza magra. Le faccio un'ultima domanda anche per tornare poi alle vittime di quei fatti di cui insomma ci sembra sempre giusto parlare. I due ragazzi spagnoli erano ragazzi che insomma adesso hanno 36 e 38 anni e che quindi avevano 11 anni di meno, un po' come chiunque ha vissuto Genova in quegli anni. In quell'anno andarono a Bolzaneto, poi, cioè questo è importante dirlo, dopo quell'arresto in piazza Manin finirono in quel luogo infernale. Sì, purtroppo l'esperienza peggiore loro due l'hanno fatta a Bolzaneto, perché prima di tutto è durata molto di più. A Bolzaneto a uno dei due ragazzi sono state rotte due costole, no, non chiaramente dagli stessi agenti che li hanno arrestati, perché sono stati consegnati a Bolzaneto. Qualcuno è stato condannato anche perché sono stati identificati nel processo di Bolzaneto, qualcuno è stato condannato anche per questo, quella condanna è prescritta. Sono un po' i paradossi del nostro codice penale, che considera molto meno grave un reato contro la persona piuttosto che un reato di falso, quindi a Bolzaneto non avremo nessuna conseguenza per, diciamo, la parte forse peggiore dell'episodio. Molto brutto anche questo che devo dire, a volte è quasi un costume di fare arresti falsi, perché a Genova ce ne sono stati, ripeto, è già la seconda condanna che passa in giudicato e siamo già 9 agenti, tra agenti e sovrintendenti, condannati in definitiva per falso. Alla Diaz, le accuse sono sempre e anche di false calunnie, quindi bisognerebbe un po' riflettere, certo, su quello che era la prassi in allora. Ci fermiamo qui, sono le 9:04 minuti, io ringrazio l'avvocato Emanuele Tambuscio da Genova, appunto è uno dei due legali che ha rappresentato questi due spagnoli che vennero arrestati in modo illegale, falso, il 20 luglio del 2001. Grazie, buona giornata avvocato. Buongiorno, anche a voi. E appunto vi voglio dire, stiamo parlando di quattro agenti, ci riguarda come Bologna, perché questi agenti erano in forza al 7° reparto mobile di Bologna, due di loro si trovano ancora in città, è giusto anche dire chi sono. Sul nostro sito trovate i nomi: Antonio Cecere, Luciano Beretta, Marco Neri e Simone Volpini. I primi due appunto sono ancora a Bologna, gli altri due agenti invece sono adesso a Roma, in servizio a Roma. Tra l'altro il primo di questi quattro agenti, Antonio Cecere, è segretario bolognese di uno dei sindacati di polizia, il sindacato SIAP. Staremo a vedere quindi che tipo di decisione prenderà il Viminale su di loro. In ogni caso appare al 99%, ma insomma poi possiamo sempre essere smentiti, ma sarebbe molto grave, scontato che ci saranno dei provvedimenti proprio in virtù dell'interdizione dai pubblici uffici che è diventata definitiva con questa sentenza della Cassazione. Alle 9:06 noi insomma torniamo ai tempi odierni, da Genova 2001, dal G8, una pagina sulla quale comunque non vogliamo mai perdere la memoria, e adesso vi facciamo sentire i Gomez.